Eravamo in camera mia anche per un'altra ragione, che mi permette di datare quella conversazione con assoluta esattezza. Ero stato espulso dal resto dell'appartamento, perché era il giorno in cui la mamma riceveva. La mamma era andata a colazione da Madame Sazra. Poiché era il giorno in cui riceveva, aveva esitato prima d'andarci, ma siccome anche a Combré Madame Sazra riusciva sempre ad invitarvi con della gente noiosa, la mamma, sicura di non divertirsi, aveva calcolato di poter rincasare presto senza rinunciare per questo ad alcun piacere. In effetti era tornata per tempo e senza rimpianti, visto che da Madame Sazra non c'erano che persone asfissianti, raggelate in partenza dalla voce particolare che la padrona di casa assumeva quando aveva gente e che la mamma chiamava la voce del mercoledì. Mia madre, del resto, le voleva molto bene. La compiangeva per il rovescio di fortuna, conseguenza delle follie di suo padre, rovinato dalla duchessa di X, che la costringeva a vivere quasi tutto l'anno a Combré, con qualche settimana a Parigi in casa della cugina e un grande viaggio di piacere ogni 10 anni. Ricordo che il giorno prima, cedendo a una preghiera che le rinnovavo da mesi e poiché la principessa la sollecitava a sua volta, la mamma era andata a trovare la principessa di Parma, che non faceva mai visite e alla quale ci si limitava, di solito, a lasciare il proprio biglietto, ma che aveva insistito perché la mamma andasse a trovarla, visto che il protocollo le impediva di venire a casa nostra. Mia madre era tornata molto scontenta. «Mi hai fatto fare un passo falso», mi disse. «La principessa di Parma mi ha detto appena buongiorno, si è voltata verso le signore con cui stava parlando senza occuparsi di me e quando dopo 10 minuti, visto che non mi rivolgeva la parola, me ne sono andata, non mi ha neanche porto la mano. Ero molto seccata». In compenso, andandomene, ho incontrato sulla porta la duchessa di Guermont, che è stata gentilissima e mi ha parlato molto di te. Che strana idea hai avuto di parlarle di Albertine. A quanto pare le hai detto che la sua morte ti ha dato un grande dolore. Gliel'avevo detto, in effetti, ma senza insistere, e non me ne ricordavo nemmeno. Ma le persone più distratte prestano spesso un'attenzione singolare a parole che ci lasciamo sfuggire, che a noi sembrano del tutto naturali e che eccitano profondamente la loro curiosità. Ma non ci torno più dalla principessa di Parma. M'hai fatto fare una sciocchezza. Il giorno successivo, che era il giorno in cui mia madre riceveva, André venne dunque a trovarmi. Non aveva molto tempo perché doveva andare a prendere Giselle, con la quale teneva molto a pranzare. Conosco i suoi difetti, ma è comunque la mia migliore amica e l'essere a cui sono più affezionata, mi disse. E parve persino un po' spaventata all'idea che le potessi chiedere di andare a pranzo con loro. Era avida degli altri, e un terzo che, come me, la conoscesse troppo bene, impedendole di abbandonarsi, le avrebbe impedito di gustare, accanto a loro, un piacere completo. Veramente, quando era arrivata, io non c'ero. Mi aspettava, e stavo per raggiungerla passando dal mio salottino, quando, sentendo una voce, mi accorsi che c'era un'altra visita per me. Ansioso di vedere André, che era in camera mia, e non sapendo chi fosse l'altra persona, che evidentemente non la conosceva, visto che l'avevano messo in un'altra stanza, ascoltai un istante alla porta del salottino. Infatti il mio visitatore parlava, non era solo, parlava a una donna. «Oh, ma chérie, c'est dans mon cœur», le canticchiava, citando i versi di Armand Silvestre. «Sì, resterai sempre la mia diletta, malgrado tutto quello che mi hai fatto. Les morts dorment en paix dans les seins de la terre. Ainsi doivent dormir nos sentiments éteints. Ces reliques du cœur ont aussi leur poussière. Sur le reste sacre, ne portons pas les mains». È un po' vecchiotto, ma così grazioso. E anche quello che avrei potuto dirti sin dal primo giorno. «Tu le feras pleurer, enfant belle et chérie». Come? Non lo conosci? Tous ces bambins, hommes futurs, qui suspendent déjà leur jeune rêverie, aussi le câlin de tes yeux purs. Ah, per un istante ho creduto di potermi dire Les premiers soirs qu'il vint ici, de fierté je n'eus plus souci. Je lui disais, tu m'aimeras aussi longtemps que tu pourras. Je n'endormis bien qu'en ses bras. Curioso, a costo di ritardare d'un minuto la mia urgente visita ad André, di quale fosse la donna a cui si rivolgeva quel diluvio di versi, aprii la porta. Era il signor di Charlus, che li stava recitando a un militare, nel quale riconobbi subito Morel, in partenza per un breve richiamo. I suoi rapporti con Charlus non erano più così stretti, ma di tanto in tanto lo rivedeva per chiedergli qualche favore. Charlus, che di solito dava all'amore una forma più maschia, aveva anche lui i suoi languori. D'altronde, durante l'infanzia, per poter capire e sentire i versi dei poeti, era stato costretto a supporli rivolti non già a una bella infedele, ma a un giovanotto. Li lasciai il più rapidamente possibile, pur rendendomi conto che fare delle visite assieme a Morel era per Charlus un'immensa soddisfazione, perché gli dava per un momento l'illusione d'essersi risposato. E d'altronde, egli univa in sé lo snobismo dei domestici a quello delle regine. Il ricordo di Albertine era diventato dentro di me così frammentario che non mi dava più tristezza e non era ormai che una transizione a nuovi desideri, come un accordo che prepara dei cambiamenti d'armonia. E anzi, scartata qualsiasi idea di capriccio sensuale e passeggero, proprio la persistente fedeltà al ricordo di Albertine mi rendeva più felice della presenza di André di quanto lo sarei stato di quella di Albertine miracolosamente ritrovata. André, infatti, poteva dirmi su Albertine più cose di quante me ne avesse mai dette la stessa Albertine. Ora, i problemi relativi ad Albertine persistevano ancora nella mia mente quando la tenerezza per lei, sia fisica sia morale, era ormai scomparsa. E il mio desiderio di conoscere la sua vita, essendo meno diminuito, era adesso comparativamente più grande del bisogno di averla accanto a me. D'altra parte, l'idea che una donna potesse aver avuto dei rapporti con Albertine non mi ispirava più che il desiderio d'avere a mia volta dei rapporti con questa donna. Lo dissi ad André mentre l'accarezzavo. Allora, senza minimamente cercare di mettere d'accordo queste parole con quelle di qualche mese prima, André mi disse con un mezzo sorriso: «Sì, ma voi siete un uomo. Non possiamo certo fare noi due proprio le stesse cose che facevo con Albertine». E sia che pensasse così di aumentare il mio desiderio, un tempo sperando in qualche confidenza le avevo detto che mi sarebbe piaciuto avere rapporti con una donna che ne avesse avuti con Albertine, oppure il mio dolore, o forse per distruggere un senso di superiorità che pensava potesse derivarmi dalla convinzione d'essere il solo ad aver avuto rapporti con Albertine, ah, ne abbiamo passati di bei momenti assieme. Era così carezzevole, così appassionata. Del resto, non era solo con me che le piaceva divertirsi. Aveva incontrato in casa di Madame Verdurin un bel ragazzo che si chiamava Morel. Si erano capiti immediatamente. Pensava lui, perché Albertine gli permetteva di divertirci a sua volta, visto che le novelline piacevano anche a lui, gli piaceva metterle sulla cattiva strada e subito dopo piantarle. Pensava lui a sedurre certe piccole pescatrici d'una spiaggia fuori mano, certe piccole lavandaie che si invaghivano d'un giovanotto mentre non avrebbero corrisposto alle profferte d'una fanciulla. Non appena la piccina era sotto il suo dominio, la conduceva in un posto sicuro e la lasciava ad Albertine. Per paura di perdere questo Morel, che del resto era anche lui della partita, la piccina obbediva sempre. E d'altra parte lo perdeva lo stesso, perché per paura delle conseguenze e anche perché una volta o due gli bastavano, lui se la filava lasciando un indirizzo falso. Una volta ebbe il coraggio di portarne una con Albertine in un bordello di Coulivie, dove in 4 o 5 la presero insieme o successivamente. Era la sua passione e anche quella di Albertine. Ma Albertine poi aveva terribili rimorsi. Credo che qui da voi la tenesse a freno questa sua passione e rimandasse di giorno in giorno il momento della ricaduta. E poi il bene che vi voleva era tanto che si faceva degli scrupoli. Ma era più che certo che se mai vi avesse lasciato, avrebbe ricominciato. Soltanto credo che, abbandonandosi ancora dopo avervi lasciato a quella voglia furiosa, i suoi rimorsi fossero molto più forti. Sperava che la salvaste, che la sposaste. Sentiva che, in fondo, era una specie di follia criminale e mi sono chiesta spesso se dopo aver provocato con una storia così un suicidio in qualche famiglia, lei stessa non si sia uccisa. Devo ammettere che i primissimi tempi che stava da voi non aveva rinunciato del tutto ai suoi giochi con me. C'erano giorni in cui sembrava che ne avesse bisogno, al punto che una volta, quando fuori sarebbe stato così facile, non si rassegnò a lasciarmi andar via prima d'avermi fatta stendere accanto a lei qui, in casa. Non abbiamo avuto fortuna. Siamo state lì lì per essere sorprese. Aveva approfittato del fatto che Françoise fosse scesa per una commissione e che voi foste ancora fuori. Aveva spento tutto perché, una volta aperto con la vostra chiave, perdeste un po' di tempo a cercare l'interruttore e non aveva chiuso la porta di camera sua. Vi abbiamo sentito salire. Ho avuto appena il tempo di rassettarmi e di scendere. Precipitazione assolutamente inutile perché, per un caso incredibile, avevate dimenticato la chiave e siete stato costretto a suonare. Ma abbiamo ugualmente perduto la testa e così, per nascondere l'imbarazzo, abbiamo avuto tutte e due, senza consultarci, la stessa idea, fingere d'aver paura del profumo dei fiori di Filadelfo, che invece adoravamo. Ne portavate un lungo ramo e questo mi consentì di girarmi dall'altra parte, nascondendo il mio turbamento. Il che non mi impedì di dirvi, con assurda goffaggine, che forse Françoise era tornata e avrebbe potuto aprirvi, mentre un secondo prima vi avevo detto, mentendo, che eravamo appena tornate da una passeggiata e che Françoise, al nostro arrivo, non era ancora scesa, cosa perfettamente vera. Ma il guaio fu, credendo che aveste la chiave, avere spento la luce, perché ci venne il timore che, salendo, la vedeste riaccendersi o, quantomeno, esitammo troppo. E per tre notti Albertine non poté chiudere occhio, perché aveva sempre paura che, non fidandovi, andaste a chiedere a Françoise come mai non aveva acceso prima di uscire. Albertine, infatti, vi temeva molto e qualche volta giurava che eravate subdolo o cattivo, che in fondo la detestavate. Dopo tre giorni capì dalla vostra calma che non v'era venuto in mente di chiedere a Françoise e poté ritrovare il sonno. Ma non riprese più i suoi rapporti con me, per paura o per rimorso, perché sosteneva di amarvi molto oppure perché amava qualcun altro. Comunque, non si è più potuto parlare di fiori di Filadelfo davanti a lei senza che diventasse scarlatta e cercasse di nasconderlo passandosi la mano sul viso. Ci sono infelicità che, come certe felicità, arrivano troppo tardi e non raggiungono in noi le proporzioni che avrebbero avute un po' di tempo prima. Così per me l'infelicità della terribile rivelazione di André. Certo, anche se qualche brutta notizia è fatta per rattristarci, succede che nel divertimento, nel gioco equilibrato della conversazione, essa ci passi davanti senza fermarsi e che, preoccupati da mille cose cui rispondere, trasformati in qualcun altro dal desiderio di piacere ai presenti, protetti per qualche istante contro gli affetti e le sofferenze che abbiamo lasciati per entrare in questo nuovo ciclo e che ritroveremo quando il breve incantesimo sarà spezzato, noi non abbiamo il tempo di accoglierla. Tuttavia, se gli affetti, se le sofferenze sono troppo imperiosi, noi non entriamo che distrattamente in quel mondo nuovo e momentaneo, dove, troppo fedeli alla sofferenza, non possiamo diventare altri. E allora le parole si mettono immediatamente in rapporto con il nostro cuore, che non è rimasto fuori gioco. Ma da un po' di tempo le parole che concernevano Albertine avevano perduto, come un veleno evaporato, il loro potere tossico. La distanza era già eccessiva. Come un viaggiatore che, vedendo nel cielo di pomeriggio una falce nuvolosa, si dice che era tutta lì, l'immensa luna, io mi dicevo: ma come? La verità che ho tanto cercata, tanto temuta, non è altro che queste poche parole dette conversando, e alle quali non si può neanche pensare fino in fondo perché non si è soli. Senza contare che mi prendeva davvero alla sprovvista. Mi ero stancato molto con André. Una verità simile avrei voluto avere più forza da consacrarle. Mi rimaneva esterna, ma perché non le avevo ancora trovato un posto nel mio cuore. Vorremmo che la verità ci venisse rivelata da segni nuovi, non da una frase. Una frase simile a quelle che ci siamo scambiati tante volte. L'abitudine di pensare impedisce a volte di provare il reale, ce ne immunizza, ce lo fa apparire come altro pensiero.